Colosso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. You in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the purse. I'm not your poodle. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like Dolly, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause you just ain't another girl like me. 'Cause you ain't worthy of a girl like me. I can do way better than you, Rich, don't worry. Now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, you're like you, no won't see. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that when I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be sush. I think you've been smoking way too much bush. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, is that suggest you just flush? Aiuto, aiuto. No, aiuto no. Ah, eccoti. Yeah. You don't even know how to provide for your shit. Broadcast guys, I spent five on a chick. All my mates said that I had you with. Do I intimidate you? 'Cause I am the shit. Yeah, I am the lick. And you should pipe down. Go make like Will Young and leave right now. 'Cause I could turn this argument right round. So baby, stick your tongue out and bite down. I don't really care the earrings you wear, the ups and downs in and out of your hair. I don't really care with the girl who works here, the what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, you're like you, no more sin. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, each bubble, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? All I heard was I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be stush. I think you've been smoking way too much bookers. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get here, always I suggest you flush. Hai tirato sul volume? Molto bene. Yes. Che faccio da questa parte io? Aiuto, ma... aiuto, chi è? Ma perché sono di qua e non di là? E non lo so, Fedra, cosa ci fai lì? Aspetta che ti alzo un po' il volume, ti sento poco. Eccoti. Lo fa Andreco, ma non lo so se ce lo dice. Andreco. Ma siamo già qui? Siamo già qui. Non siamo ancora in sigla. Siamo ancora un po' in sigla, però siccome siamo in ritardo, benvenuti alla, io non mi ricordo più, la 148esima puntata 40... di Corpo Spaziale. E non urlare così perché sennò dopo ti sentiamo a scatti. Come stai, Fedra? Dove sei più che altro? Ah, io sono a Dro, in provincia di Trento, nella fattispecie alla centrale Fies, dove sto lavorando alla performance di Andreco che ci porta a lavorare nei boschi e nel, non lo si può dire perché è ancora top secret come location. Stiamo facendo un lavoro in site specific che debutta con il 36esimo festival di stasera. Wow. E qua c'è Andreco. Ma io ho una domanda, ciao Andreco, io ho una domanda per te subito, ma io e te non ci conosciamo, vero? No. Tu lo conosci questo faccino qui? Vedo solo la tua foto, ma penso di no. La foto di da Skype. Ah, quella di Skype. Sì, quella lì l'ho fatta in grigio. Un paesaggio simile, no? Infatti notavo, Zana, dove eri? Ero a Meteora, in Grecia. Però, fai il nome. No, perché devi sapere che Andreco è un artista contemporaneo italiano. Lo conosciamo di fama, certo. Appunto. Poi appunto. Da domani tutti i link per andare a spulciare meglio tutti i lavori, che sono tanti. Ma in particolare lui, avendo una formazione scientifica, cioè diciamo ha una formazione scientifica che gli permette anche di andare in maniera molto più approfondita e viscerale ad analizzare quello che è un po' il suo punto, luogo di ricerca poetico. Che è... Siamo già nel pieno della trasmissione e non ho ancora salutato i miei ospiti. Cioè, sei spaventosa, Fedra. No, infatti sono italiana un po'. Comunque l'ambiente. Sì. Io dicevo il sasso, giustamente, è l'ambiente. Perché sì. Parla poco, bisogna costringerlo a parlare, quindi io lo provocherò dicendo strafalcioni. Così ti correggo un po'. No. Ma Andreco da dove viene? Scusatemi. non faccio interviste per radio, non so come mi ha convinto Ferra, però io sono originario di Roma, però per 12 anni ho vissuto in altre città, tra cui molto Bologna. Tra cui Bologna, infatti, questo lo sapevo. So anche che hai fatto il vecchione di Capodanno. Sì, un paio di anni fa. Di anni fa, ecco, infatti stavo per dire quest'anno, invece era un paio di anni fa, ma perché il tempo passa che è una bellezza. E posso interrompervi un secondo e salutare i miei ospiti, perché io ho ben quattro ospiti. Ho Giulio Lolli. Ciao. Riccardo Lolli. Salve, ancora qui. Ma ciao. Enrico ciao. Farnedi. Ehi là. E Dulcis in fundo, estrema riluttanza, appena arrivata da New York. Hello. Ma dai. Spaventosi. E abbiamo appena salutato la brava e bella Lady, che non credo di aver mai visto prima di questa doppia ora di trasmissione sul rap. E poi un'altra cosa che ti devo dire, Fedra, mi sono dimenticato la musica di sottofondo. Come facciamo? Me la fai tu? Sì, tra un pochino. Prima però, visto che estrema riluttanza, saluto tantissimo i graditissimi ritorni dei nostri ospiti, che insomma salgono un po' sul coccio, un po' troppo in mia assenza, e vorrei vederli dal vivo, però insomma sarà per le prossime. E New York in realtà ritornerà più spesso nella puntata, e quindi accolgo la palla al balzo per farti un esempio del primo lavoro che ha trovato Andreco e Centrale Fies, che li ha messi in contatto, che è stato un lavoro che Andreco ha realizzato a New York. Sì. Avevo fatto una installazione a New York per una personale, e poi la foto di questa installazione è stata vista da Centrale Fies, che mi ha chiesto di rifarla per il Draw di sera del 2012, e così ci siamo conosciuti. E anche Centrale Fies ha molto caro il tema dell'ambiente, e quindi io direi un pochino com'era realizzata questa installazione, per capire un po' com'è che si muove, quali sono i temi che Andreco utilizza per andare e tornare tra le scienze, l'arte e la poetica. Era un'installazione fatta di piante selezionate secondo uno studio della NASA, le piante che assorbono più inquinanti in atmosfera, e rappresentava un uomo, una figura umana, diciamo, delle sembianze umane, sdraiate nel quello che qua chiamano il canalone, che è la sala che unisce le sale teatrali, diciamo. Era circa 8-9 metri. E poi, quindi era un'installazione permanente per il periodo del festival. E poi, finito quello, comunque siamo sempre rimasti in contatto, e adesso mi hanno chiamato per fare, anzi mi hanno prodotto questa nuova performance, che sarà per quest'anno, quindi a distanza di 4 anni. E infatti qua praticamente Centrale Fies ha prodotto questo lavoro, per il quale Andreco ha aperto un bando, al quale hanno risposto anche diversi bolognesi. Tra cui io, ok. Tra cui Fedra Boscaro, tanto per cambiare, ma perché guarda, ormai lo sanno tutti, questo conflitto di interesse all'interno di Coxo Spaziale è veramente spaventoso. Detto questo, nel frattempo ti ho messo, senti che musichetta che ti ho messo di sottofondo, eh? Bravino, ma sei multitasking. Si chiama Maria Elena. Giusto? Grande. Non so. No, questo è. Scusa. Over the Rainbow. È Over the Rainbow. Oltre no. L'arcobaleno. Ah, no, perché Maria Elena è il titolo del disco. Perché invece sono Los Indios Tabajaras. Spaventosi. Detto questo, posso interrompervi di nuovo e mettere su un pezzo tipo? No? Sì. Sì. No. E ci salutiamo. Ah, oppure poi approfondiamo, perché l'abbiamo un po' tagliata lì. No, dobbiamo approfondire. Io non ho capito niente, però siccome allora dopo la musica, per approfondire meglio di cosa si tratta sto lavoro, perché ci sono dei bolognesi, cosa fanno. Esatto. Intanto metto un gran pezzo di giovani torinesi che si chiamano i Soft Moon, se trovo il tasto play, forse, non lo so. Bello. No, forse il può darsi che il CD2 non sia collegato, non lo so, qua stanno un po' traslocando, per cui no, direi che ascoltiamo Maria Elena. Questa è Maria Elena, non lo so. Hai tu la copertina del disco con te. Però perderei. Farnedi, intervieni e dai il tuo contributo, renditi utile, insomma. Che bello. No, volendo potremmo fare un coro alpino. Potresti fare un coro alpino. piccoli problemi tecnici. Piccoli problemi tecnici, CD2 è tutto alzato, la canzone sta andando, ma lei non me lo fa, non me lo fa. Ma il nostro, si vede che il CD2 non viene usato molto spesso. Molto bene. Allora facciamo. Intanto che tu risolvi il problema tecnico, finiamo un attimo qua, così ecco, poi ci togliamo dalla connessione, dai, tu sei libero di prendere, esatto, gli altri contatti con New York. Facciamo così, dai, continua, dai, continua, dai, a parlare, allora. Le persone che hanno risposto a questa chiamata sono delle più svariate provenienze, perché abbiamo da architetti, danzatori, c'è anche una maestra di discipline cinesi da Bologna, veniamo, scalatori, scale in montagna, ecco, dai, dice qualcosa anche tu, Andrea, dice. Cioè, vengono da varie regioni, da Bologna sì, sono tre persone praticamente, alcuni sono dei locali, perché comunque si voleva coinvolgere persone del luogo, e poi sicuramente un gruppo multidisciplinare, ci sono... non sono tutti performer professionisti, ci sono anche dei performer professionisti, ci sono tre attori che mi sono portato da esperienze pregresse, che sono Dina Quadri, Diego Giannettoni e Lucia Palladino, che già conoscevo, diciamo. E invece tutte le persone della call sono di vario tipo, insomma, con vari background diversi, che è anche una ricchezza su cui lavorare. E in un qualche modo è anche lo spettro del tipo di codici che vai a usare tu, perché molti sono venuti incuriositi anche per il côté scientifico del tuo percorso artistico. C'erano la call, c'era il workshop, c'era il lavoro sulla natura, e tutti questi elementi effettivamente saranno restituiti al pubblico in uno spettacolo site specific che si svolgerà lungo il territorio circostante a Centrale Fies. Esatto, abbiamo spostato il palcoscenico sui rami degli alberi e sui macigni della frana, che è la frana delle Marocche, che è qua dietro la centrale Fies. E in questo modo i veri protagonisti dello spettacolo sono? Chi sono? E il bosco. I protagonisti sono la frana e il bosco, e poi tutti gli altri performer sono... per aiutare i protagonisti, che è la natura al centro, diciamo, questa è l'idea del progetto, e anche per mostrare questo territorio bellissimo che è questa frana delle Marocche, 13 chilometri quadrati di macigni, è una delle più grandi d'Europa ed è bellissima, però molte persone che vengono qui al festival vedono solo gli spettacoli e vanno via, invece è bello anche affacciarsi e guardare il territorio, che le bellezze che comporta questa, una piccola passeggiata nel territorio. Certo, con questa musica messicana, diciamo che non è che dà proprio l'impressione del Trentino, ma va bene lo stesso. Sì. Beh, comunque noi la musica messicana non la sentiamo, perciò te la riscampata, non avessi fatto outing. Per il 23-24 luglio, per venire a vedere The Rock Slide and the Wood. Ho detto bene, Pasqua? Ma sì, direi di sì. Yeah. Bisogna chiederlo all'estrema riluttanza. Perfetto. Luce naturale, perciò andiamo in scena dalle ore 18 fino al tramonto. Veniteci anche voi, dai. Siamo praticamente già lì. Bisogna prenotare, perché ovviamente si porta in un i sentieri sono un po' stretti, no? Sì, sono 25 persone alla volta, quindi mancano 10 giorni per prenotare. Ma da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per essere pronti all'occorrenza. Dico bene, Pasc? Dici benissimo. Hai risolto il problema con CD2? Certo che no, il CD2 dice che è morto, ma noi ce ne freghiamo perché abbiamo un sacco di computer, per cui facciamo così. Tipo così. Ah, aspetta, visto che c'è un'ultima cosa, che Andrea è qui, oltre che con questo lavoro performativo, sì, anche con l'installazione che ha lo stesso titolo, dico bene? Sì, dei bronzi. Dire. Sono dei bronzi e si possono acquistare? No, non si possono acquistare. Allora, vi saluto e vi bacio. Baciamoci e baciami anche quei quattro fantastici che sono saliti sul 148esimo coxo. Ciao Petra, ciao Andrea, e buona aria fresca. Ciao. E salutami anche Amante. Ciao. Like a demon, opens the wounds and then fills them with lead, and I'm having some trouble just breathing. If we weren't such good friends, I think that I'd hate you. If we weren't such good friends, I'd wish you were dead. Skillet on the stove, it's such a temptation. Maybe I'll be the lucky one that doesn't get. But what the fuck was I thinking? What the fuck was I thinking? What the fuck was I thinking? Ed eccoci qua alla 148esima puntata di Coxo Spaziale. Non funziona niente, ma del resto, voglio dire, è il bello della diretta. Che cosa mi raccontate voi altri? Cosa siete venuti a fare qua? Io avevo capito che c'era l'aria condizionata, quindi sono un po' delusa perché ero venuta per quello. Beh, ma l'aria è condizionata dalle scoregge di Lolli che è seduto di fianco. No, c'è l'aria psicotropa, come... C'è un'aria psichedelica. C'è un'aria un po' psichedelica, devo dire. Perché poi, fra l'altro, è anche strano tutta sta luce qua di dietro. Comunque, stiamo per traslocare. Io adesso non ho ancora capito bene quando, ma penso che entro fine mese ci se ne vada di qui. Ma la nostra amica Susi Muso Grigio, dove sarà? Ha detto che ci avrebbe ascoltato, però sì. Era al lavoro oggi. Oggi era al lavoro, io so che va in ferie, penso, dalla settimana prossima, però... Farnedi, i Goodfellas hanno suonato Molinella, me lo sono sognato? Abbiamo suonato ieri sera a Selva Malvezzi. Wow. Che penso sia una frazione di Molinella. Una frazione... Alla Locanda Pincelli. E non è venuta, non la Pincelli, ma la nostra amica Anna Rosa Calegari, che salutiamo... No, simpaticamente. A Molinella eravamo, no, Medicina. A Medicina? Medicina, non Molinella, Medicina. Eravamo in zona Caterina Cavina, dunque. Esatto. Non per fare autoreferenzialità. Ieri sera, sì, in mezzo al vento. Ma tanto ormai abbiamo, tra un minuto devo far già partire le pubblicità delle 7:30. È una felicità. Io mi scuso con i nostri meravigliosi teleradio ascoltatori, ma non faccio il DJ da un sacco di tempo, come ben sapete, perché Fedra è sempre qui e io non ci sono mai, invece. Senti che bella... Potrei sfumare la pubblicità delle 19:30 in questo modo. Aspettiamo che si faccia le 19:30 in punto per mandarla. Siamo a 19, o puoi raccontarci 29. Qualcosa? E posso raccontare... No, in realtà non ho abbastanza tempo per raccontarvi niente. Per cui... facciamo così, dice 19, 29, 36 e così. Il Red Brick raddoppia. Ha aperto il nuovo Red Brick di Castelmaggiore, al centro commerciale Le Piazze. La carne è sempre la vera protagonista, innaffiata da ottima birra artigianale e vini di qualità. Insomma, Red Brick si fa in due per voi. A Bologna in via Frassinago 2C. Aperto da martedì a domenica sera e il sabato anche a pranzo. E la domenica il mitico brunch. E a Castelmaggiore con giardino esterno in via Pio La Torre 9C, all'interno del centro commerciale Le Piazze. Sempre aperto a pranzo e a cena. Red Brick raddoppia. Raddoppia la tua fame. Obo Tattoo and Gallery. Aperto dal martedì al sabato dalle 14 alle 19, ma anche il suo appuntamento. Obo Tattoo and Gallery a Bologna in via Ranzani 13/5C. Per informazioni e prenotazioni 051 41 27 582 o sul sito www.obotattoogallery.com per scoprire i tatuaggi realizzati in studio. La festa è tornata! A Bosco Albergati dal 15 luglio all'8 agosto torna la grande festa dell'unità! Musica, ristoranti, spettacoli, incontri, cinema e tante novità! Vieni a scoprire il nuovo mercato latino e assaggia le specialità argentine, cubane e brasiliane! In più tutte le sere, musica dal vivo! Dal 15 luglio all'8 agosto torna la grande festa dell'unità a Bosco Albergati, Castelfranco Emilia. Scoprila su festaboscoalbergati.it. Perché scodinzoli? Vado a farmi bello! Oggi mi portano da Mille Bolle Bau! Cos'è? Tolettatura per tutte le razze di cani, rasature, tagli tecnici a forbice, stripping e trimming per rendere il nostro pelo sano e ordinato, bagni curativi e ozonoterapia. Hanno 20 anni di esperienza! Voglio farmi bello anch'io! Dov'è Mille Bolle Bau? A Bologna! In via Giuseppe Bentivogli 111A, in zona Cirenaica. E se non possono portarti, c'è il servizio taxi che ti prende e riporta a casa! Ho visto che cercavano Mille Bolle Bau Bologna su Facebook! Mille Bolle Bau, la tranquillità del vostro cane è al primo posto. Ritorna al gusto di un tempo. Vieni da Ponte Rosso Caffetteria e Ristorante. Menù ricchi e creativi con specialità della tradizione bolognese. Un luogo storico dove la migliore cucina incontra il piacere di stare assieme. Caffetteria e Ristorante Ponte Rosso lo trovi a San Giorgio di Piano sulla strada provinciale 4 Galliera Sud. Sul sito www.ristorante-ponterosso.it o prenota il numero 051 4844 366. Radio Città Fujiko cambia sede. In queste settimane la radio lascia via Gian Bologna 4 e trasloca nella nuova sede di via Zanardi 369. Portate pazienza se la programmazione è ridotta all'osso. Stiamo lavorando per ricominciare con una radio ancora più bella. Se poi volete darci una mano, scoprite come andando su www.radiocittafujiko.it e leggendo l'articolo intitolato Radio Città Fujiko cambia sede. E tranquilli, traslochiamo gli oggetti, non le nostre idee. Lupo ululà, birra ululì. Finalmente al Pub La Locanda di Via Treves 19 arriva la birra alla spina Lupulus. Birra belga prodotta a Bovigny da Pierre Gobron, ex birraio di Schuff. La Lupulus è una birra bionda ad alta gradazione, non filtrata né pastorizzata, per assicurare il mantenimento delle specifiche caratteristiche organolettiche. L'utilizzo di lupolo in quantità abbondante dona a quest'oro liquido una freschezza e un bouquet incomparabili. Vedrete, rimarrete incantati. Pub La Locanda di Via Treves 19 e birra Lupulus. Si può bere! Yeah, ed eccoci qua. Allora, Fedra naturalmente non mi può lasciare libero di fare la trasmissione che mi pare, anzi mi costringe a fare uno Skype a New York con Alessandro Amanti. Alessandro, mi senti? Sì, ciao, ciao Stefano. Ah, ma ti sentiamo fortissimamente e chiarissimamente. Cosa fai a New York? Mi hanno detto che numero uno tu sei un regista di documentari, sì, e numero due hai vinto un premio importantissimo. Sì, sono un regista anche di documentari, faccio anche spot e io ho studiato a Los Angeles, sono di Bologna e mi trovo a New York perché ho vinto un premio per un trailer di un documentario di cui sto curando la regia. Che ho visto prima sulla una macchina da corsa di cui non conoscevo l'esistenza, perché io non sono un fanatico delle macchine da corsa. Come si chiama? Si chiama Bizzarrini. Bizzarrini 1900 GT Europa, molto bella degli anni 70. Bizzarrini era era una casa automobilistica italiana, poi fallita, e la storia parla appunto di questo meccanico bolognese, Giuliano Giunta, che compra una scocca di questa macchina e durante praticamente metà della sua vita, 45 anni, la costruisce una macchina, la macchina dei suoi sogni, diciamo. E noi in questo documentario l'abbiamo intervistato, abbiamo fatto molte interviste, molte ricerche, ed è la storia di un sogno realizzato, diciamo. Ma dunque il film è un lungometraggio, esiste tutto oppure esiste solo il trailer e basta? Sarà un lungometraggio, un documentario, e verrà presentato a Bologna a fine ottobre. Ah, che bello, per cui potrai venire in studio a raccontarcelo. Molto volentieri, assolutamente. Ma tu sei di base a Bologna o...? Ora sono di base a Bologna, sono tornato da 8 mesi dopo 3 anni a Los Angeles. 3 anni a Los Angeles, che bello, ma Winona Ryder l'hai incontrata? No. Però ho incontrato Eric Roberts. Wow. Ah, però interessante. No, che a me Los Angeles mi affascina un casino, però non ci sono mai stato. Io sono stato un sacco di tempo a New York invece, ma Los Angeles mi manca. Com'è stato vivere 3 anni a Los Angeles? Adesso non voglio sviare fuori dal tuo trailer, ma mi interessa sta cosa. Ma è stata una bellissima esperienza. Los Angeles è una città stupenda, è grande come Lazio, quindi da Bologna a Los Angeles ovviamente il paragone è un grande cambiamento. Certo. Però comunque è stata una bella esperienza di studio, di lavoro, ne sono tornato sicuramente arricchito, ecco, diciamo. Ho capito. Ma e dunque ti hanno già premiato? Quando è che ti premiano? Allora, fondamentalmente il festival inizia oggi, alla 19ª edizione. Perché adesso a New York sono le 12:30, giusto? No, l'1:30, è ora di pranzo. Esatto, qui okay. L'1:30. Allora, buon appetito, adesso so che non puoi mangiare perché sei in radio con noi, però. E dunque stasera comincia. Dunque, sì, stasera ci sarà la proiezione del documentario. E domani invece ci sarà sono due premiazioni. La prima premiazione dei premi tecnici sarà domani. Mm-hmm. E mi hanno già appunto annunciato che ho vinto la miglior direzione artistica. Wow. Questo su tutti i progetti, non solo sui trailer. Forse non dovevamo dirlo in radio. No, scherzo. Tanto che non credo che da New York qualcuno stia ascoltando Radio Città Fujiko, ma non si sa mai, perché in streaming su www.radiocittafujiko.it esatto. Si può fare. Ma no, la domanda d'obbligo è: ma l'hai affittato lo smoking? Oddio, è un festival, il dress code è abbastanza casual, diciamo. Ho capito. Quindi non è come Cannes o Venezia, diciamo che è più tranquillo. Però è comunque un festival internazionale e sarà sicuramente interessante, ecco, una bella esperienza, spero. Che meraviglia. Sì. Bene, non lo so, c'è qualcos'altro che volevi aggiungere? Questo è un documentario che è stato ideato da Eric Rondinelli, che è un mio caro amico, che ha una sua società a Bologna che si chiama Gulf Blue, che fa appunto restauro di macchine d'epoca. Wow. E lui un giorno, io ero ancora in America, mi chiamò e mi disse: guarda, dobbiamo fare questo documentario, è una storia bellissima, e devi farlo tu. E da qui è nata, diciamo, l'avventura. Poi il tuo documentario è quasi pronto, è stato post-prodotto e montato dall'agenzia di comunicazione Luis.it, in cui lavoro. Ed è un secondo successo perché abbiamo già vinto un premio qualche mese fa, quindi ecco, siamo molto contenti di questa cosa. Che meraviglia. Bene, allora ti ringraziamo tantissimo e poi dopo su www.coxospaziale.com domani troverete il link per vedere il trailer vincitore, che è meraviglioso, devo dire, a me è piaciuto moltissimo, considerando che a me di macchine non me ne frega niente. Beh, ti ringrazio molto, spero che ai tuoi ascoltatori possa piacere e grazie ancora di questa opportunità. Figurati, grazie a te. Ciao Alessandro e a presto. perché praticamente è successo sta cosa qua, che io mi stavo annoiando insegnando elementi di grafica editoriale a Torino, e, che è la mia seconda materia, per cui non è quella per cui sono pagato. Aspetta un attimo, fermati lì, ecco. No, dicevo, non è la materia per cui sono pagato, è una seconda materia che così, insomma, si insegna grafica editoriale. E allora mi sono inventato questo esame finale, ovvero che i miei studenti dovevano produrre tutto il packaging di un CD, inclusa la musica. Ah sì? Per cui ho vinto tipo una trentina di CD, e poi dopo a settembre ne vincerò altrettanti. E questo era il pezzo dei Soft Moon, che naturalmente sono un gruppo amico dico sempre che devono mettere il nome, purtroppo non so chi sia lo studente che mi ha mandato i software. Vabbè, se ha fatto il packaging di un CD, il nome del grafico va più piccolo di tutti gli altri. Sì, no, infatti lei l'ha messo così piccolo che non, che non so chi perché sia, si vergogna per cui ancora. Perdonami, sappi che ho messo sulla musica dei tuoi amici, ma non mi ricordo. Dammelo qua che cerco io. No, ma non c'è. Ne ho, cioè, in realtà potrei cercare nel mio hard disk, eccetera. E se riesco, invece, cercherò di suonare anche un pezzo dei Disquiet Place. No, dei Morning Sun. Disquiet Place. No, non so se sono. Ah no, Disquiet Place. E la cui grafica invece è stata fatta da Claudio Gerardi, ma forse ce la faremo più tardi. E dicevo, appunto, il bello di tutto questo è che mi arriva un sacco di musica, e ho scoperto che i giovani di oggi ascoltano la stessa musica che ascoltavamo noi negli anni 90, cioè gli anni 90 non sono mai passati, cioè o l'hanno fatto perché sanno di che generazione sono io. Secondo me qui c'è del ruffianesimo, si ungono le ruote dell'ingranaggio. Sì, no, devo dire che qualcuno di loro secondo me qualcosa è andato a scoprire, perché una mi ha fatto tipo un CD misto con solo del punk, con i Ramones, i Clash, eccetera, però un sacco di roba anni 90. E poi invece qua ho anche dopo Festival col caldo, ah no, questo è fuori catalogo, cioè ho sia Auguri al di Enrico Farnedi che fuori catalogo di Riccardo Lolli. Che il grafico chi è lì? Il grafico si chiama come si chiama? Brutture moderne, no. Ai Weiwei, magari. Sarebbe bello però telefonare Ai Weiwei e dirgli: ma senti, io voglio fare un CD nuovo, me la fai la grafica? Secondo me ti dice anche di sì. Chi lo sa? Come sta andando la vendita del tuo super raccoltone? La raccoltona in download su Bandcamp, ne ho vendute due, una a te e una al mio amico Massimo, che viene domani sera a suonare alla Garo, quindi gli ridarò i soldi. Ah, grande! Vedi che ti sbagli sempre, cioè, tu dovresti dire sta andando benissimo, sta andando. Le vendite sono partite. Partite le vendite, esatto. Sono partite le vendite, ma Massimo però io non lo conosco. No, è musicista, suona il sax baritono. Perché un giorno mi è arrivato uno spam di uno che dice: guarda, a 4,99 ti mando un WeTransfer con tutto il raccoltone di Lolli. E io stavo per dirgli sì, va bene, però non si chiamava Massimo, secondo me si chiamava forse Giulio, non lo so. No, ma detto, la serpe in seno. A 4,99 ho detto: ma no, dai, scusa, a questo punto. Comunque puoi anche registrare, come fai la cassetta come una volta, cioè, perché su Bandcamp puoi ascoltare i pezzi tutti. È vero. Fino a tre volte, dopo la terza volta devi comprare. La terza volta, infatti, a me mi è successo, perché io stavo registrando Jenny Owen Youngs, che tipo negli ultimi sei mesi ha fatto quattro album, per cui non potevo continuare a dargli 9,99. A un certo punto, allora stavo registrando e a un certo punto mi è uscito il coso che ho scritto: ma forse non è che l'hai ascoltato un po' troppe volte, e forse sarebbe il caso che lo comprassi. Però intanto dietro continuava ad andare, per cui ho finito di registrare tutto. Poi dopo le ho comprate alla fine, perché ogni tanto lei fa... Lei è quella del pezzo prima, quella di Fuck I Want. Ah, ok. Fa cos'hai. E no, siccome ogni tanto fa delle offerte su Instagram, allora tipo, no? Un CD a 9,99, però senza i prezzi di spedizione. Che per noi, che veniamo da Zola Pietosa, insomma... Sono impegnativi. Ma sì, una volta ho comprato. Lei da dove spedisce? Lei spedisce da Los Angeles in questo momento, sì. Anche se prima abitava a New York, adesso si è spostata. Una volta ho comprato due magliette per un totale di $30 e me le hanno tassate 18 euro. Cioè, voglio dire, è un po'. è come se comprassi dalla Garo, no? Il 9,99 gli aggiungessero olive e ti diventasse 11,98. Un po' come se comprassi tu alla Garo delle camicie cinesi e poi dopo arrivassero arrivando dalla Cina arrivano invece delle da bambino praticamente. Ma invece tu, Enrico, un ukulele online non l'hai mai comprato? Un ukulele no, ho comprato una tromba online. Dalla Cina? No, tromba dall'America, una tromba vintage del 1959, è stato uno dei momenti più emozionanti di quest'anno. Ma su eBay o l'hai vinta? L'ho vinta secondo? Su eBay, come io però non ho capito nulla di eBay. Ah, certo. Me l'hanno spiegato dopo che in realtà tu devi dare, in teoria dovresti mettere il prezzo massimo che sei disposto a pagare, poi si arrangia eBay a fare rilanci, rilanci. Io non lo sapevo, pensavo di dover rilanciare io, per cui c'erano mettevi questi stronzi che mettevano qualcosa più di me. Okay. Il secondo dopo in cui io mettevo, in realtà era esatto. Io li odiavo e allora ho rilanciato un po' di più e alla fine ho vinto io. Ma però la cosa ero nel palazzetto dello sport con Aldo, Giovanni e Giacomo, fra una canzone e l'altra, io controllavo con il mio dispositivo smartphone l'andamento della cosa, ed è stato molto più emozionante quello che suonare davanti a 8.000 persone. Ah, è vero che hai suonato davanti a 8.000 persone, ma anche però a Londra c'era un miliardo di persone. No, 3.000. Era l'Hammersmith Odeon, Praticamente metà degli italiani che abitano a Londra sono venuti a vedere Aldo. No, pare che gli italiani a Londra siano quasi 500.000 nell'area urbana di Londra. Allora ci chiedevamo dove fossero gli altri 400.000. 97.000 quella sera lì. Giusto. No, probabilmente erano andati a Montreal. A Montreal sono 1.800.000 gli italiani. Sì, è la città italiana più grande del mondo. Per cui per non imparare, cioè lì a Montreal cosa? Montreal parlano il francese? Sì. Questo uno va là per imparare il francese e non lo impara. Beh, sicuramente non se vai a vivere a Little Italy. È un po' come andare a imparare il toscano alla Garo, no? Ancora, ci vuole ancora qualche chilometro per imparare il toscano. Sì. Detto questo, è l'ora della menzione, per cui metto lo stacchetto, che è qua. L'angolo della menzione. Oddio, sì. Funzionano ancora i nostri stacchetti dopo 3 anni? Funzionano ancora, sì, devo dire. Ma girano ancora? Girano ancora, soprattutto. No, anche perché non abbiamo trovato nessuno che ce ne facesse di meglio. Detto questo, ho solo una menzione, che è stasera. Adesso devo anche ricordare, perché dopo ci vado. Ed è una... non ho capito che cos'è in realtà. È una cosa così. Si chiama Schmod Accept/Decline e dice: due macchine sonore innescano quello che può tramutarsi in dialogo. Abbasso la musica di sottofondo perché altrimenti il pathos qua scema. E tra i due esecutori, monologo tra esecutori e spettatori o soliloquio tra presenze, immagini e suono, l'intermittenza tra il dialogo mimetico del suono e quello diegetico dell'immagine confluisce con l'interferenza generata dalla presenza del pubblico stesso. Un dittico volto a diventare polittico, dove l'elemento duale trova nella molteplicità il fine ultimo del suo compimento. E questo si chiama Schmod ed è alla Galleria Più in via del Porto 48 alle ore, cavoli, non mi ricordo che ora è, dovrebbe essere alle ore 21, non mi sono segnato l'orario, comunque se non è alle 21 è alle 21.30, per cui abbiamo tutto il tempo di andarci a mangiare un cinese, ballare un valzer e poi tornare a Coxo Spaziale. Oggi non c'è neanche scritto Raio, però so che ci sta ascoltando perché lui non va mai in vacanza e guida attorno alla tangenziale sempre in continuazione. Dice che ci sono due messaggi, grande la programmazione all'osso, no, non è quello. Dice che ci sono due messaggi ma non riesco a vederli, per cui secondo me non ci sono, è tipo un falso storico questo. C'è il WhatsApp di Radio Città Fujiko funziona come tutto il resto, nel senso che è diverso dal WhatsApp che noi conosciamo, per cui cioè così come la console è diversa dalle console che noi conosciamo, i CD player sono diversi dai CD player che conosciamo, per cui quando premiamo play non succede niente. Ma è giusto, perché altrimenti ti rilassi, no, e dopo. Ma infatti, invece così stai sempre sul chi vive, c'è la tensione proprio. Esatto, creativa. Per non parlare dello scatolone blocco telefonica esterna che solo Fedra e Riccardo Lolli sanno utilizzare. Ma è finito il tour di Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure continua ogni tanto? Il tour è finito, abbiamo iniziato a fare le prove i primi di marzo e abbiamo finito le ultime date a Lugano l'8, il 9 di giugno. L'avete finito giugno. Con Lugano addio? Con Lugano addio, esatto. Ho capito. È stato tre mesi, ma è finita lì. Adesso loro stanno lavorando, stanno ultimando il film di Natale. Ma com'è fare il suonatore di comici? Io lo faccio da un sacco di anni. La prima volta è stato con Aldo Giovanni e Giacomo nel 1999. Ah, addirittura, pensavo che prima di tutto l'avessi fatto con Macario nel 1998. Con Macario, quello secondo è il pianista Emiliano Pintori, che infatti si aspettava dopo parecchi anni di queste collaborazioni, ha messo un elenco di quelli con cui ancora non l'abbiamo fatto, c'è Macario e ci sono altri personaggi. No, il primo è stato il 99 con Aldo, Giovanni e Giacomo, poi dopo abbiamo collaborato con Paolo Cevoli, sempre con i Goodfellas, tutto quanto. Poi io con Paolo Cevoli ho fatto anche degli spettacoli, uno spettacolo con un'altra formazione. Poi tanti anni con Cocchi e Renato. Cocchi e Renato, sì, no. Fare il. Pace all'anima loro. Ma no. Ancora no. Ma come? Mi sono sbagliato. Renato, ma tra sai l'altro, perché è su Toto Moati. Renato, tra l'altro, è ancora in tournée. No, non tra si l'altro, è mai fermato. Ieri l'altro ho letto su Toto Moati una roba che mi ha spezzato il cuore. C'era scritto che era morto PSY, quello di Gangnam Style. Che io e Riccardo siamo stati a Seul nel momento di massima esplosione, cioè dovunque con ti giravi c'era dell'arte, PSY, proprio nel quartiere Gangnam, esatto, cioè davvero. Noi siamo stati a dormire nel quartiere Gangnam e poi in realtà era una bufala che girava dal 2014, per cui è spaventosa questa cosa. È finita la musica di sottofondo e allora a questo punto bisogna mettere su This Quiet Place, però scritto con la D, non TH, capito? This Quiet Place, adesso afroamericana. Mi scuso con Claudio, ma metto su il pezzo più corto, va bene? Questioni tecniche. Lo scelgo così, tipo 3 minuti e 22, tipo questo qua. Ma forse sono anche bravini, dai. Everything left me. male, sto pezzo, cosa dite? Vabbè, era molto rock grunge. Molto rock grunge, però. Cioè, queste chitarrone. Ma infatti devo dire che sono bravi. E graficamente cosa ne. Beh, graficamente adesso credo che a lui, se non sbaglio, gli ho dato un 28. Perché. Ma quindi dai. Un buon incoraggiamento. No, infatti, beh, quest'altra. Questa qui? Che non mi ricordo, un 30 lode. Beh, quello è un bel lavoro. È quasi più bello di questo. E gli hai fatto vedere un disco. Sì, vabbè, tu la grafica di auguri Alberta l'hai sempre odiata. Avevi le mani legate, insomma, c'erano dei tamarri come proprietari, esatto. Quindi voglio dire. No, e poi in più, capito, continuavo a ricevere dei messaggi da un assicuratore che diceva: se non mi metti in copertina ti blocco. E finalmente... C'erano dei vincoli via, purtroppo. E finalmente sono riuscito a fare. L'arte è stata imbavagliata in quel caso. E così, insomma, stavo cercando un pezzo dei Twi per concludere in bellezza tutta questa torinesità, ma non lo trovo, per cui adesso l'ho già suonato l'altra volta, mi toccherà di suonare Molinella di Riccardo Rolli. Ce l'hai? Ce l'ho. Ce l'ho qua. Tra l'altro, a proposito di Molinella, sì. Avevi ragione tu, ieri ero vicino a Molinella. Grande. No, l'altro ieri. No, è il bello che. In realtà, bisognerebbe chiedere al nostro Alessandro Amanti, che abbiamo sentito da New York prima, di fare un documentario su di te, perché secondo me questo tuo spaesamento di non sapere dove sei, eccetera, che esprimi benissimo quando hai fatto il diario di bordo di Aldo, Giovanni e Giacomo, si capiva abbastanza bene che non, cioè, eri così perso che non sapevi dove eri. E anche un po' quando ti ho incontrato a Torino, però sei stato prontissimo nel salvare la gamba di una mia collega. Vabbè, sì, io vivo nel qui e ora, non so, cioè, se vedo una macchina che investe un ma dai, hai il libricino con te, che non si sa mai quando. Che meraviglia. Questo è il famosissimo libricino di tra l'altro mi è già stato chiesto, questo è anche quello precedente che era delle vacanze che mi ha fatto io Estrema a Maiorca. No, effettivamente su questo poi dovrei farti una lezione su come funzionano queste cose, perché, è perché cioè, una biblioteca non può chiederti un'opera d'arte, una biblioteca dovrebbe comprare un'opera d'arte. Cioè, di solito funziona così, capito, che tu produci qualcosa e in effetti no. No, ma spiega come è stata la richiesta, perché magari i nostri ascoltatori non sanno. È la biblioteca dell'archivio dei diari, l'archivio nazionale diaristico, una cosa del genere. Ed è vicino a Reggio. È a Città di Castello. Ah, ecco, infatti mi ricordavo che era in Umbria. Perché gli volevo dare i diari delle medie della Katia Morichetti, perché non è mai venuta a riprendersi. Ho bisogno di fare spazio e pensavo di dargli. Se no potresti metterli nella differenziata, dove c'è la carta. Non lo so, non credo che sarebbe molto contento. E poi cos'è che ti hanno chiesto dunque? Abbiamo chiesto questo e l'altro diario che avevo fatto, anche poi sono tipo anche lì 15 pagine, non sono di più. Okay. Quando siamo stati in vacanza a Palma di Mallorca. E tu cosa a febbraio. Gli hai riposto? Lei non sa chi sono io. Sì, esattamente. No, ma lei lo sa. Quello che mi richiede. È una signora, sì. Ok, puoi continuare a parlare per 3 secondi e mezzo che io intanto vi faccio delle foto, perché altrimenti... Però, certo, per domani scusa, non so cosa mettere. Spiega la motivazione per cui ti hanno chiesto sì, esatto, i diari. Sì, esatto, mi ha chiesto i diari perché questo archivio, che è molto bello, tra l'altro io ho letto un diario che ha vinto, perché ogni anno premiano il diario migliore, un diario che si chiama Gli Zappaterra, è stato chiamato, riedito sotto forma di una sorta di romanzo, e me l'ha prestato Luisa Atti, tra l'altro. Ed è un diario, questo diario in particolare parlava di questa signora attraverso la prima e dopo la seconda guerra mondiale, e qui nel bolognese. E invece la signora, quella che lavora lì all'archivio, mi ha chiesto di donare i miei diari colorati e disegnati, perché così almeno a parole testuali, così almeno quando vengono i bambini delle scuole non abbiamo da fargli vedere solo dei diari di guerra che fanno una tristezza incredibile. Bellissimo. Oddio. Opla. E poi fanno un po' ridere. Perfetto. No, effettivamente ai bambini piace lo stile Farnelli, no? Beh, sì, sì. Cioè, auguri Alberto, è stato il primo in classifica nella classifica di Boeing per un sacco quello, di mesi. Quello sì, subito dopo c'era la Violetta. C'era Violetta e poi c'era il remix di, com'è che si chiama? Di Kiss Me Ligia, quella è stata remixata. È stata Cristina D'Avena. Esatto. Sì, anzi, approfittiamo per salutarla, Cristina D'Avena, che ha scoperto abitare a Bologna. Per cui sicuramente sì, ascolterà Radio Città Fujiko tutti i giorni. Se sei in ascolto, Cristina, chiamami. Manda un sms al 333-1809-494. Funziona anche con WhatsApp. Molto, però mi sa che abbiamo finito. Molto benissimo. Cavoli, stiamo già sforando di brutto. No, dicevo, Cristina, chiamami perché ti voglio in studio. Pensa che bello avere Cristina D'Avena in studio a Radio Città Fujiko. Detto questo, vi salutiamo e andiamo tutti a Molinella, giusto? A Molinella. Allora, salutiamo prima di tutto il re di Molinella, Riccardo Lolli. Grazie. Saluta Alberta, tra l'altro, scusate. Ah, che bello, ci saluta Alberto. È in Estonia. È in Estonia. È vero. Ah, che bello. E poi salutiamo Giulio Lolli, che è il producer di tutta la discografia di Riccardo Lolli. Sì, giusto. Giusto. Estrema riluttanza, non abbiamo capito cosa sei andata a fare a New York, ma sulla fiducia. Ma non comunque importa, ho mangiato le polpette dell'IKEA a New York. Are you talking to me? Yeah. Grande. E poi naturalmente salutiamo Enrico Farnedi e anche Fedra, che è là nei boschi assieme ad Andreco, chissà cosa combineranno, e anche il nostro regista, che aspettiamo con ansia qui insieme a Cristina D'Avena in studio, Alessandro Amanti, che ringraziamo. Dopodiché salutiamo anche a questo punto Veronica della Galleria Più, che ci vediamo dopo. Posso interromperti un attimo? Certo. Su Messenger mi scrive Susi Musogrigio che lei aveva scritto un messaggio e non è arrivato. I famosi messaggi che non riuscivi a trovare. Sì. Probabilmente Susi, i messaggi ci sono, ma qui la tecnologia e Pasquini. Per me non è la tecnologia, io sospetto che il problema non sia la tecnologia, però... Tu sospetti forse bene. Ciao giovani di oggi, la Susi, hai ragione. Ecco. Lo segnalo come spam. Ciao la Susi. Mandale la polizia subito postale a casa. Subito. C'è un altro che ha scritto ciao, che però non si è firmato, però... È utile quello. Abbiamo scritto anche Baciocchi, che ha chiesto di portarci delle birre. Ha chiesto se volevamo della birra. Cavoli, Baciocchi, sei... A saperlo prima. La risposta comunque è sì. Molto bene. Sarà qua... Noi ci scusiamo con la pubblicità, ma dobbiamo sentire Molinella. Beh, magari aspetto, se tu sarai a Molinella e se c'è nebbia, al limite ci sentiamo su Skype. Avete ascoltato Coxo Spaziale? Coglierò i fiori sulla fascia di rispetto dell'asse attrezzato. Coglierò i fiori, guiderò con le ginocchia per poterli contare. Sarai a Molinella e se ce ne vive, divento vecchio. Se tu sarai a Molinella e se ce ne vive, al limite vieni qua tu. Comprerò i frutti del nostro disappunto sulla tangenziale. Comprerò i frutti con il bicarbonato per poterli lavare. divento vecchio. Se tu sarai a Molinella, se c'è nebbia al limite, vieni qua tu. Cambierò verdura.